nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciate in piazza. A Rimini d'estate, Mauro, ma anche d'autunno, direi, no? Perché noi questa settimana ci siamo. Ma cara Debora, certo, come si sta lì a Rimini? Perché noi invece qui a Milano, voglio dire, Peter Bescapè in regia, Giulia Lauricella dall'altra parte del vetro ed io naturalmente qui al microfono. Tre contro tre. Vi pensiamo molto lì a Rimini, a Ecomondo. Cioè... Con anche un po' di invidia, possiamo immaginare. Beh, insomma, diciamo che qui a Milano la giornata è piovosa, uggiosa e, come dire, vi invidiamo abbastanza, è la verità. Allora, spieghiamo bene ai nostri ascoltatori il motivo di questa nostra separazione momentanea. Radio 24 questa settimana, avrete avuto modo di sentirlo anche nel corso di altre trasmissioni, è presente alla 21esima edizione di Ecomondo, che è la fiera della Green e Circular Economy, a Rimini appunto dal 7 al 10 novembre, e questo è il motivo per cui noi ci siamo separati, perché io conduco Due di Denari da qui a Rimini, sono venuta un po' a ridipingermi di verde, Mauro, in qualche maniera, e tu sei rimasto invece lì. Io sono Milano. Rimasto a guardia del bidone, come si dice in gergo, ma è giusto così, bisogna anche essere galanti. Aspetta, guarda che do un piccolo parametro nel caso in cui qualcuno ci senta voglia venirci al volo a trovarci, perché certo. Siamo presso la Hall Sud, quindi siamo vicinissimi all'ingresso, c'è il Village del Sole 24 Ore, che è un super stand rosso, e subito dietro c'è quello della radio, per cui siamo facilissimi da rintracciare e da venire a trovare. E allora salutiamo naturalmente tutti gli ascoltatori che fossero lì a Ecomondo e che possono quindi vedere Debora Rosciani, ma anche Marco Lombardo dovrebbe essere lì da quelle parti. Sì, no? C'è anche Carmelo Lauricella e c'è Davide Ciocia, quindi c'è tutto lo staff che mi assiste come sempre. Molto bene, questo mi rende più tranquillo, rende tutti noi qui a Milano più tranquilli. Volevo dirti, questa fiera è particolarmente importante per noi italiani. Vero. Perché abbiamo visto anche da dati recenti, da rapporti che sono usciti negli ultimi giorni di ottobre, ad esempio, che nel settore appunto green circular economy, ma insomma vogliamo dire recupero, riuso, riciclo, l'Italia una volta tanto è ai primi posti in Europa, cioè facciamo bella figura, efficienza energetica, riciclo dei rifiuti, produttività delle risorse, insomma. Quindi questo fa di Ecomondo una fiera importante non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale per tutte le aziende che operano in questo settore. E noi questa mattina vogliamo allora parlarvi di raccolta differenziata, di come smaltire correttamente i vostri rifiuti. Esatto, e sottolineerei la parola correttamente, perché non è sempre facile anche orientarsi in un campo che è disciplinato in maniera piuttosto diversa da comune a comune, Mauro. Tra l'altro, essendo poi noi due di Denari e quindi attenti anche al soldo, attenzione, perché si rischiano poi delle sanzioni ed è, come dire, antipatico per una cosa che già consideriamo un rifiuto, quindi qualcosa di cui liberarci, rischiare anche di dover pagare una multa. Però è questo che succede. Allora, ad esempio, succede spesso nei condomini dove magari lo smaltimento, la separazione dei rifiuti non è fatta in modo corretto e quindi da lì ci sono assemblee condominiali infuocate, avremo modo di parlarne, ma poi c'è lo smaltimento dei piccoli rifiuti elettronici, ma anche di quelli grandi. Ieri abbiamo parlato di televisori, cara Debora. Chissà fra un po' quanti ne dovremo buttare quando partirà quel famoso switch off di cui abbiamo parlato ieri. Esatto, poi quando torni scegliamo un bel televisore anche per noi due, ma anche il televisore, ad esempio, è uno di quei rifiuti che si chiamano in gergo RAE, cioè rifiuti di apparecchiature elettroniche e elettrotecniche, che vanno conferiti ai negozi o nei centri di recupero specializzati. Quindi tutte le buone pratiche, ma anche le pratiche economiche sulle quali naturalmente vi invitiamo a telefonarci e a scriverci ai numeri abituali. Debora, vuoi ricordarli tu? Li ricordo io, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se ci volete raccontare qual è la modalità di raccolta differenziata del vostro paese, della vostra città, se avete dei dubbi su alcuni aspetti della gestione dei rifiuti nella vostra città, insomma, queste operazioni come vengono gestite. Se volete, questa mattina vi diamo anche questa opportunità, segnalatecelo con una foto, se volete su Facebook o su Twitter, via WhatsApp, i vostri condomini, come si comportano comportano o i vostri colleghi condomini? C'è qualche indisciplinato che non fa una differenziata corretta e quindi questo comporta che arrivino fior di multe a vostro carico, anche perché poi pagano tutti? Avete dovuto gestire nel palazzo questioni legate proprio allo smaltimento corretto o scorretto dei rifiuti, quindi ci potete raccontare anche questo aspetto, perché ne parleremo con degli esperti. Senti, prima di presentare proprio gli esperti, perché ne abbiamo qua in studio a Rimini, poi abbiamo qualche collegamento telefonico, c'è un'ultima informazione di servizio, Mauro, da dare, riguarda ancora Gamma Donna. Ah certo, perché abbiamo a disposizione ancora pochi biglietti, se volete partecipare il 16 di novembre prossimo, quindi settimana prossima, al 9° Gamma Forum Nazionale, che, come vi abbiamo spiegato in queste mattine, è un appuntamento molto importante per l'imprenditoria femminile e giovanile. Assegneremo questi biglietti a nostro insindacabile giudizio a chi ci scriverà 349-238-6666 SMS o WhatsApp chiedendo, che so, consigliando una misura normativa, piuttosto che raccontandoci una sua idea di business o raccontandoci una sua esperienza imprenditoriale. Magari nel settore green, che ne dici? E perché esserci no? Potrebbe anche qualche cosa di carino che viene fuori da qua. Allora, oggi avremo un occhio di riguardo per le idee green, diciamo tu così. Tu pensa che ho di fronte a me, tanto per raccontarti quello che succede qui a Rimini, Mauro, adesso non è che voglio fare pubblicità, ma è una cosa che mi ha colpito, visto che sono una donna, e tutti i prodotti di bellezza vado curiosando naturalmente nel settore. C'è l'olio solido che ti rende una pelle, meravigliosa. Se vuoi te ne porto un po'. Ma sì, grazie. Tra l'altro non hanno, gli ascoltatori oggi non hanno la possibilità e il piacere di vederti su Facebook, dovranno accontentarsi invece di vedere soltanto me, perché non abbiamo anche questo ponte video, però la pagina Facebook è sempre aperta, è sempre a vostra disposizione. Benissimo, abbiamo terminato con la batteria di informazioni di servizio, come sempre siamo pronti a partire. Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Dimenticare dentro un cestino non è proprio una cosa consigliabile, come ci può ben ammonire l'avvocato Eugenio Correale che abbiamo in linea. Buongiorno avvocato Correale. Buongiorno, buongiorno. Perché ho ascoltato non... con interesse. Perché non si può dimenticare le cose dentro un cestino, specialmente in condominio, che poi si va in assemblea e si litiga, succedono cose terribili, e suo figlio butta sempre la lattina invece dove dovrebbe andare il vetro e voi non fate l'umido se siete in un comune con l'umido e così via. Allora ricordiamo un po' come funziona, cioè come quali sono le regole fondamentali, specialmente in condominio, perché poi le multe, come già diceva Deborah, le spettano a tutti i condomini, esatto, e vengono assegnate. Sono democratiche, quelle si distribuiscono tra tutti. Vengono assegnate come? Per millesimi? Sono ecumeniche le multe, sì, vanno ripartite per millesimi. Io direi che occorre considerare la normativa in primo luogo perché conviene. Sì? Conviene per vivere meglio, per vivere in maniera più decorosa. Poi volendo si può pure pensare al fatto che ci sono una legge ambientale che fa obbligo a tutti i proprietari di provvedere a vigilare, custodire, mantenere, tenere depositati in maniera corretta tutti i rifiuti di qualunque genere. E poi ci sono, come diceva la dottoressa Rosciani, i regolamenti locali che integrano e che prevedono minutamente come bisogna fare. Io direi che il sistema dei rifiuti in Italia ha due caratteristiche: estremamente complessa la normativa, molto complicata, molto lunga, però tutto sommato con degli effetti salutari che sono stati già segnalati. Andiamo abbastanza bene, soprattutto in città come Milano le cose funzionano, funzionicchiano. Esatto, non solleverei il problema di altre città italiane che invece sono sotto i riflettori e che invece hanno una condizione molto differente. Dottoressa, sì, se mi permette, le dico che sono nato al sud e vado volentieri. Posti bellissimi, forse non troppo ben presidiati. Esatto. Ecco. Vi sta ascoltando con molto interesse l'ospite che ci ha raggiunto qui nei nostri studi di Rimini. Se siete d'accordo ve lo presenterei, Mauro. Prego. È Giorgio Quagliolo, presidente di CONAI, che il CONAI è un altro bel condominio da gestire, presidente, è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi. Chi ci abita dentro questo condominio? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a partecipare alla vostra trasmissione. È un condominio nel quale abitano sostanzialmente i consorzi di filiera, consorzi di filiera sono quei consorzi che si occupano ciascuno del proprio materiale di riferimento, per cui siccome i materiali con cui sono costruiti e fabbricati gli imballaggi sono sei, per cui abbiamo plastica, che ne ribadisca, rinfreschiamoci la memoria, rinfreschiamoci che non ci fa mai male, plastica, carta, acciaio, vetro, alluminio e legno. Per cui ognuno di questi materiali ha un suo proprio consorzio che appunto è preposto alla gestione dei conferimenti dei materiali che vengono raccolti dai comuni o dai delegati del comune. Quindi il vostro impegno si esprime in che modalità? Beh, l'impegno di CONAI è soprattutto un impegno di coordinamento delle attività dei consorzi e un impegno rivolto alle quelle amministrazioni che ancora oggi non fanno una raccolta differenziata perché intraprendano questa strada virtuosa e noi siamo al loro fianco sia da un punto di vista di sostegno fattivo, sia da un punto di vista anche di sostegno economico. Certo, ce ne sono molte, Presidente, di città che ancora non sono ben orientate su questa strada? Purtroppo ne abbiamo ancora parecchie. Ha sempre quel ghignetto che le viene da ridere, però insomma segno che c'è un bel po' di lavoro da fare. C'è molto da fare ancora, purtroppo come sottolineava l'avvocato prima, la parte prioritaria del paese è la parte meridionale, segnatamente la Sicilia, e la Sicilia è sicuramente la regione meno virtuosa, meno attrezzata, e è un grosso problema perché la Sicilia è una regione di 5 milioni di abitanti, di più di 5 milioni, ed è per cui una popolazione notevole, stiamo parlando di 4 anni. Secondo, con quelle bellezze che hanno, esatto. Deturparle anche con rifiuti in giro. No, beh, va tutto in discarica, il problema della discarica è che poi qualcosa va in discarica, qualcosa finisce nel territorio. Quando poi abbiamo quelle belle piogge che tanto invochiamo quando ci sono i periodi di siccità, però molta parte di questi rifiuti poi vanno a finire in mare. Vabbè, insomma, ci sono state le elezioni proprio in questi giorni, magari chissà che la nuova Emauro amministrazione, infatti si spenda un po', anche perché a livello nazionale, non, come dicevamo prima, Deborah, non siamo messi male, anzi negli ultimi 10 anni abbiamo praticamente raddoppiato la nostra capacità di raccolta differenziata. Siamo al 52,5%, dobbiamo ancora crescere. E c'era una curiosità su cui volevo interpellare proprio il presidente di CONAI, anzi due. L'una è che so che CONAI ha fatto un decalogo della raccolta differenziata e quindi magari poi chiediamo al presidente di illustrarcelo, lo metteremo anche a disposizione sulla nostra pagina Facebook. Sì, così. Perché ti devo dire, Mauro, guarda, scusami se ti interrompo continuamente, io ho trovato delle informazioni sulle quali ho scoperto di essere molto superficiale, pur avendo la sensazione di essere abbastanza virtuosa nel fare la differenziata, invece qualche errorino, devo dire, adesso non posso confessarlo pubblicamente, se no la mia amministratrice di condominio magari viene a saperlo. Detto questo, piccole cose, poi magari le segnaliamo, che però magari fanno tutti, ma nella totale buona fede, perché mettiamoci, non è che sono tutti furboni, insomma, delle città. Guarda Deborah, hai fatto proprio bene, perché qui già ci sono gli ascoltatori che ci scrivono ad esempio degli sms dicendo: ma ad esempio se ho un involucro che all'interno la carta però fuori è plastificato, dove devo metterlo? Esattamente. Quindi ci sono tutte queste indicazioni anche nel decalogo appunto di CONAI. Volevo poi, alcuni invece ci chiedono dell'umido, perché esatto. Non in tutti i comuni, come sappiamo, si fa, e allora questa è una parte invece che viene più regolata, ma chiedo conferma anche l'avvocato Correale, dalle normative locali, cioè comunali. È così, avvocato Correale? Sì, assolutamente, anche perché sono proporzionate ai servizi dei quali il comune gode. È inutile separare l'umido dal resto se poi non ci sono i sistemi per smaltirli separatamente. Il problema dei rifiuti è nato perché all'inizio si facevano depositare in maniera differenziata e poi i comuni non avevano la possibilità di utilizzare le varie tipologie. Oggi correttamente ci dicono: se io posso separare l'umido dal resto, io provo a farlo, altrimenti è inutile dare un'incombenza al cittadino che sa prima o poi che fa una cosa che non ha nessun giovamento. Quindi sono i regolamenti comunali che provvedono, che separano anche le responsabilità a seconda della pericolosità dei rifiuti che vengono smaltiti male. Certo, perché c'è anche quell'aspetto lì, naturalmente, di una differenziata fatta male e che ha delle conseguenze proprio di pericolosità per la collettività. Presidente Quagliolo, quali sono proprio gli aspetti ancora più complicati da gestire per la differenziata? Quali sono quelle situazioni nei confronti delle quali i comuni fanno fatica appunto ancora ad adeguarsi, i settori di maggior difficoltà di gestione? Ma ci sono sicuramente delle problematiche di tipo impiantistico, questo è inutile che ce lo nascondiamo, perché come è stato detto prima, la raccolta differenziata poi da qualche parte deve andare, certo. Perché dobbiamo sempre ricordare che la raccolta differenziata non è il fine ultimo è portare al riciclo questi materiali, dobbiamo fare secondo me un cambio di paradigma, cioè un cambio di mentalità. Cioè, quello che fino a ieri chiamavamo rifiuto dobbiamo cominciare a immaginare e a considerarlo una risorsa, per cui essendo una risorsa bisogna trattarlo in maniera che crei valore. Tutte possono essere una risorsa? Tutte, assolutamente tutte, certo. Possono essere una risorsa sia da un punto di vista di recupero di materia, possono essere anche una risorsa con la termovalorizzazione per produrre energia o calore. Uh-huh. Cioè, fuori Brescia c'è un meraviglioso impianto che termovalorizza i rifiuti non riciclabili e che produce sia energia che calore. Per le scuole del posto, se non ricordo male, perché conosco quella, per il teleriscaldamento, quella situazione. Infatti. Esattamente, per cui questa è... Diciamo che oggi come oggi uno degli ostacoli più grossi che stiamo incontrando è il problema degli impianti. Ad esempio, prendiamo Roma, se vuole avviarsi sulla strada dell'umido, della raccolta differenziata anche dell'umido, deve assolutamente avere degli impianti di compostaggio, perché poi se raccoglie l'umido non sa dove metterlo, lo manda a bruciare, come diceva giustamente prima l'avvocato Correale, è inutile che si impone a un cittadino uno sforzo, perché fare raccolta differenziata comunque è uno sforzo, perché richiede attenzione, richiede fatica, perché devi fare, cioè è molto più semplice buttare tutto insieme, no? Esatto, sì, certo, però. Però sì, no, non è un grande sforzo, anzi. Però sappiamo che i cittadini, cioè l'essere umano è pigro, insomma, cioè molta gente, insomma, non è che c'ha tanta voglia di star lì magari a mille pensieri per la testa. Per cui è uno sforzo che deve essere premiato con un senso, con un'utilità, ecco. No, devo dire che io, per esempio, un paio di anni fa ero in vacanza in Grecia e vedo che lì buttano insieme ovunque. Chi è abituato poi come noi invece a fare la differenziata, risulta veramente scandaloso e inaccettabile, certo, vedere tutto quel cumulo di rifiuti messi insieme. No? Mauro, a te mai è capitato di avere un po' una sensazione di disturbo? Adesso non perché siamo così virtuosi, però... No, diciamo che quando uno prende l'abitudine, io credo che sia un po' quello. Infatti, guarda, me lo dimostrano i messaggi che ci stanno arrivando da un po' da tutta Italia. Quando uno prende l'abitudine poi gli diventa quasi una cosa automatica. Naturale, e gli pare strano che altrove, magari quando si reca in un altro paese ad esempio, non si faccia questo tipo di attenzione. Io volevo dirti, Deborah, abbiamo già due ascoltatori che ci hanno telefonato, ad esempio Paolo da Ancona ci vuole segnalare un esempio virtuoso, se capisco bene. Buongiorno Paolo, ci dica. Buongiorno a tutti. Allora, io vivo in un piccolo comune che si chiama Monte San Vito, è un comune della provincia di Ancona che fa circa 6.000 abitanti, sì. E devo dire, in questi ultimi due anni ha attivato un servizio di raccolta differenziata attraverso la collaborazione di un'azienda che si chiama Rieco, attivando appunto delle procedure. Direi che stanno funzionando molto, tant'è che il nostro comune ha un riciclo pari quasi al 90% del totale, quindi per essere un piccolo comune facciamo molto riciclo. Però Breccia, ci ha scritto che avete un'app. Siamo stati tutti dotati, cittadini, di buste con codice a barre che sono poi assegnati ad ogni nucleo familiare, da dove appunto si risale se quel nucleo sta facendo differenziata in modo corretto. E poi questa azienda ci ha dato la possibilità di scaricare un'app da dove noi, attraverso il codice barre, possiamo sparare sul prodotto che vogliamo riciclare e da lì capiamo dove deve essere indirizzato lo smaltimento. Diciamo che è tutto molto interessante sicuramente, dico Mauro, no, assolutamente. Poi sono anconetani, qua è fuori, lo so, qui il campanilismo emerge, esatto, certo. faccio fatica ad immaginare delle collettività dove magari c'è una popolazione anziana molto diffusa che abbia facilità ad utilizzare delle app per gestire le informazioni legate alla possibilità di fare raccolta differenziata, pur plaudendo ovviamente l'iniziativa di questa piccola amministrazione comunale, per cui diciamo che forse c'è tutto un lavorone a monte da fare prima di arrivare a questa rivoluzione anche tecnologica che va fatto in maniera capillare e diffusa, non so, Presidente Quagliolo. Ci sono molti di comuni anche, paradossalmente, all'opposto della Sicilia, invece molto virtuosi, molto accaniti nella differenziata, che vogliono primeggiare come questo piccolo paese della provincia di Ancona? Certamente. Monte San Vito. Certamente. Adesso io però inviterei a non fare confusione. Sì. Cioè, non confondiamo raccolta differenziata, tasso di raccolta differenziata e riciclo, che il 90% di riciclo mi sembra un dato sinceramente... Magari ha fatto confusione nell'utilizzo della terminologia. Esattamente. Fanno differenziata al 90%, esatto. Forse voleva guardi, dire. Noi abbiamo uno dei nostri casi di maggiore successo nella città di Bari, dove proprio quest'anno, intorno a primavera, abbiamo avviato una collaborazione col sindaco. Mi urge ricordare che il sindaco di Bari, tra l'altro, è anche presidente dell'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Grazie a una forte volontà politica di questo sindaco e al grande entusiasmo del suo assessore all'ambiente abbiamo fatto tutto il progetto per la raccolta differenziata di due quartieri che fanno 18.000 abitanti, per cui quasi un paesone italiano, e siamo arrivati all'80% di raccolta differenziata. Noi lì li abbiamo assistiti col progetto, con la startup, col piano di comunicazione, per cui gli abbiamo fatto praticamente tutto. Quello il business plan, chiamiamolo così, business plan che è la nostra specialità. Certo. Noi siamo qui per, diciamo, questo è il nostro, diciamo, compito primario. E, sì, ci sono dei paesi che sono decisamente molto virtuosi. Chiaramente è molto più facile arrivare a tassi elevatissimi di raccolta differenziata in realtà non troppo grandi, in città grosse come Milano, ad esempio. Benché Milano sia posizionata molto bene a livello di metropoli, però chiaramente pensare di raggiungere livelli così elevati è molto, molto, molto difficile. Certo. Allora, Presidente, ci dobbiamo fermare un attimo perché adesso abbiamo le informazioni sui mercati finanziari, però vi invitiamo comunque a telefonarci, a scriverci ai numeri abituali, quindi 349-238-6666 se volete mandarci sms o whatsapp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta, e chiedo un attimo di pazienza alla signora Maria D'Acomo, che ha poi una domanda per l'avvocato Correale. Ma adesso, cara Debora, le borse. Sono pronta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Out in green, green, rocky road, you're promenading green. E allora, caro Mauro, riprendiamo la nostra trasmissione in questa giornata che ci vede separati. In realtà lo siamo stati parecchio questa settimana, dobbiamo recuperare, devo ritornare un attimo ma nei spesso raghi. Tu viaggi, Debora, io non riesco a starti dietro, anche per questioni anagrafiche. Fammi trovare l'ufficio pulito e in ordine quando torno, tengo tutto raccomando. In ordine, non facciamo quella festicciola tra amici che ti avevo detto. Mi raccomando, con le bottiglie studio, di plastica, una volta che hai bevuto, buttare dove le devi buttare, la carta dove va buttata, e quindi tutto in regola, perché altrimenti qua fioccano le multe, come abbiamo ben spiegato stamattina. Oh, ma tra l'altro la carta, guarda, stavo leggendo il decalogo con AI della raccolta differenziata che poi... devo farle spiegare al presidente, peraltro, certo, perché l'abbiamo esempio, preannunciato. Sì. Attenzione, punto 5, la carta quando è sporca, sporca di cibo, sporca di terra, di sostanze magari velenose come i solventi, il fazzoletto usato, le vernici, ecco, non va nel contenitore della carta. Attenzione, se è in qualche modo contaminata, non dobbiamo mettere nel contenitore della carta, perché questo peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. Forse questo non lo sanno. Uh-huh. Un esempio molto classico è il cartone della pizza, secondo me, ma chiedo una conferma al presidente se, come dire, avendo contenuto la pizza si è sporcato di olio o di altri alimenti, ecco, non dovete metterlo nel bidone della carta, ma invece lo diamo nell'indifferenziata. Ho detto bene? Ha detto benissimo. No, perché tra l'altro ci sono anche molti ascoltatori, adesso qualcuno lo metteremo in onda, che si lamenta del fatto che magari sarebbe utile che sul cartone da buttare venisse precisamente indicato se va nella carta, visto che spesso hanno questa doppia confezione, carta esterna, una leggera plastichina interna, tipo la carta del latte, il cartone del latte, Presidente. Quante volte gliela fanno questa domanda? 18 volte al giorno? Guardi, il cartone del latte è uno dei problemi che stiamo affrontando. Ah, ecco, quindi non è che sono io disinformata, no, è proprio una questione aperta. Però normalmente, a meno che non ci sia la raccolta proprio mirata e separata del Tetra Pak, perché questo è, di questo stiamo parlando. Il termine giusto è questo. Essendo questo un poliaccoppiato a prevalenza di carta, perché contiene tre materiali, carta, plastica e alluminio, quando non c'è la sua raccolta specifica, va conferito nel contenitore della carta, perché si può recuperare. Ci sono dei sistemi che recuperano la parte di carta di cui è composto questo imballaggio, che poi vengono avviati a riciclo come perché adesso spesso questi contenitori del latte hanno anche il tappo praticamente, che invece è plastica, quindi andrebbe generalmente, a me capita di farlo che con i denti lo tolgo, quindi tolgo quel pezzetto di plastica, però il contenitore lo metto nella carta. Sarebbe un'operazione virtuosa fare così, sì, certamente. Bene, caspita, ottimo. Hai visto quante virtù ho? Ma sei bravissima, non lo saresti mai immaginato. Ma non avrei mai messo in dubbio la tua virtù, cara Debora, ci mancherebbe altro. Invece guarda che Maria da Como ha una domanda per l'avvocato Correale, sì, perfetto, perché parliamo della tassa rifiuti. Oddio, guarda, lì ti lascio completamente al tuo destino. Allora, no, sentiamo innanzitutto la domanda di Maria. Buongiorno, Maria. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Io vorrei sapere se una persona che ha la residenza in un paese e per motivi di lavoro documentati con un contratto d'affitto, sia pur temporaneo ma che può valere degli anni, deve pagare la tassa anche sul comune di residenza, dove non consuma ovviamente. Cioè, risiede in un posto ma vive materialmente altrove. Avvocato Correale. Beh, la risposta sta nella legge. La legge prevede l'obbligo di pagare in relazione alla titolarità di immobili e alla destinazione d'uso degli immobili, per cui se si ha un immobile che può essere abitato ci sarà una tassa in base a quell'utilizzazione e così via, secondo delle varie destinazioni d'uso. Del resto il fatto che si abiti da una parte e che l'altro appartamento sia tenuto vuoto, è affidato molto alla buona fede e alla iniziativa delle persone. Tu sei proprietario, paghi. Oltretutto una volta la tassa veniva graduata e veniva fatta pagare all'intero condominio, ora hanno spacchettato, per cui appartamento per appartamento, a seconda delle destinazioni d'uso, si paga in base alle varie tariffe che sono previste. Posso chiedere all'avvocato Correale, prima di salutarlo, perché poi Mauro ti preannuncio che ci ha raggiunto qui in studio a Rimini un altro ospite, sì, per parlare dell'argomento che tu hai introdotto all'inizio del programma, lo smaltimento dei piccoli elettrodomestici. Volevo chiedere, perché non ho capito se l'abbiamo detto all'inizio, ma mi pare di no, all'avvocato Correale, quanto si paga se in condominio non si fa la differenziata corretta, quali sono le multe che possono fioccare, che devono essere poi pagate da tutti, un'entità, una cifra? Facciamo la media è 117 euro, il minimo è 50, il massimo è 250, ma normalmente è quello che è calibrato sulla base di rifiuti che non siano particolarmente pericolosi, di un comportamento che sia di violazione ma non particolarmente significativo. E in genere chi è che segnala l'azienda che viene a fare ovviamente la... Ecco, lei mi fa la vera domanda per la quale un avvocato è abilitato a rispondere. Il condominio deve badare soprattutto a questo. È possibile che l'azienda applichi la multa in conseguenza della violazione che è commessa da un altro. Molte volte ci sono comportamenti abbastanza furbeschi, il condominio a fianco, il negozio a fianco, che nel depositare le immondizie malamente non le colloca davanti alla propria porta ma fa qualcosa di diverso. Ecco, quella è la vera difesa che i condomini devono abituarsi a prendere, verificare che il titolare dell'immondizia, lo si può fare in vari modi, molte volte ci sono delle etichette. Uno degli intervenuti parlava del fatto che ormai i sacchetti hanno delle delle possibilità di, ecco, dei codici a barre e così via. Quella è la bella difesa che si può fare anche nei confronti dei condomini che siano titolari di unità immobiliari adibite al ristorante, per esempio. Loro hanno quasi sempre l'obbligo, comunque la convenienza, a fare un contratto particolare con l'azienda, quindi separare a quello. Al di là di questa possibilità di difendersi dicendo non è mio, è di un altro, la cosa più conveniente da fare è pagare la stazione. Sono stazioni, a Milano sono un po' meno cari, e sono intorno ai 70-80 euro. Però se sono frequenti cominciano anche a pesare sul bilancio, insomma, sulle rate. Io mi accorgo, mi perdoni, la interrompo per dire, io mi accorgo che quasi sempre sono ondate. Cos'è che accade? C'è un comportamento non virtuoso, c'è la segnalazione da parte di chi raccoglie le immondizie, ci sono quindi delle sorveglianze. Arrivano le multe, la gente si acquieta e vengono meno le multe. Magari non contemporaneamente, nello stesso contesto, però sono evidentemente una conseguenza dell'altro. È il caso in cui, caro Mauro, il deterrente funziona. Eh sì, è la nostra parte. Devo dirti, Deborah, molti ascoltatori ci scrivono per la Tari, ma questa mattina parliamo soprattutto di raccolta differenziata. Avremo occasione di tornare sulla tassa rifiuti, che è un altro punto, come sempre, dolente. Vuoi presentarci il nostro ospite prima molto di interromperci volentieri per il traffico? Giorgia Rienti, direttore generale di Ecodom, il consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici. Benvenute, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, sa che ieri abbiamo parlato dell'imminente switch off dei televisori, delle frequenze televisive. Arriverà un'ondata di televisori da buttare, vi siete già preparati a tutto questo? Temo di sì, arriverà, ecco. Tra l'altro non è ancora finita la prima ondata, cioè i tubi catodici nelle nostre case sono ancora particolarmente numerosi. Io adesso immagino che gli ascoltatori abbiano in cantina, in taverna, qualche reperto del mesozoico. E ne arrivano ancora tanti, quindi non è ancora finita la prima ondata e prima o poi, tra qualche anno arriverà la seconda. Mauro, stiamo dando anche una notizia stamattina. Ancora dobbiamo smaltire i televisori con il tubo catodico, magari uno è affezionato e poi ci hanno spiegato anche ieri si può adeguare il decoder, finché si riesce uno magari lo tiene. Allora ci fermiamo per qualche istante, scriveteci, telefonateci ai numeri abituali, ma adesso traffico! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Due di denari. Trash is neat. Teenage fever on you. Beh, questo non lo conoscevamo nessuno dei due. No, guarda, devo dire che oggi Giulia era particolarmente creativa nella sua selezione musicale. È sfidante, sfidante. Un po' come la raccolta differenziata, che è sfidante. Non sai mai bene dove devi buttare la roba. Almeno però invece per gli elettrodomestici mi sembra che le cose siano un pochino più chiare, perché sono stabilite senza particolari variazioni a livello locale e sono stabilite a livello nazionale. Ma di questo sa tutto Giorgio Arienti, che è lì con te. Tra l'altro i due decreti di cui parleremo a breve hanno delle denominazioni anche abbastanza originali. L'uno contro uno e l'uno contro zero, Presidente. Sì, l'uno contro uno è un decreto che in realtà è operativo dal 2010, prevede la possibilità per i consumatori di restituire al negoziante gratuitamente l'apparecchiatura da buttare quando si compra un'apparecchiatura equivalente, quindi un frigo per un frigo, una lavatrice per una lavatrice, una TV per una TV. Questo dovrebbe rappresentare per tutti gli elettrodomestici che sostituiamo la modalità prevalente per disfarci di quello vecchio, nel senso che è naturale quando si compra un frigorifero doversi disfare di quello vecchio, difficilmente uno ne tiene due in casa, la stessa cosa per una lavatrice. Devo dire che le statistiche indicano che questo decreto è conosciuto e utilizzato, però non ancora pienamente. Il mercato di sostituzione dovrebbe rappresentare grosso modo almeno il 95% su questi grandi elettrodomestici, la quantità di RAE invece che tornano attraverso l'uno contro uno non raggiunge queste percentuali. E la motivazione dove sta? Perché noi non siamo informati, non riportiamo magari dal centro commerciale dove compriamo il nuovo il vecchio elettrodomestico, perché non lo riprendono volentieri? Entrambe le cose, devo dire che purtroppo la situazione è abbastanza variegata, credo che le grandi catene dei distributori, quindi i negozi specializzati, ormai attuano in modo sistematico questo servizio, i negozianti più piccoli probabilmente insomma esitano. È chiaro che per i negozianti è una complicazione, un'aggiunta in termini di servizio, è un'aggiunta in termini di oneri, è una complicazione operativa, però è una modalità importante per consentire ai consumatori di disfarsi dei grandi elettrodomestici. L'altro decreto è molto più recente, è del 2016, si chiama 1-0 perché in sostanza prevede la possibilità di disfarsi delle piccolissime apparecchiature, la legge dice fino a 25 cm, portandole quindi gratuitamente per esempio, una radiosveglia, il microonde è già troppo grande, un cellulare, un asciugacapelli, un cominciamo elettrico. Cominciamo col piccolo, Mauro. Le cose piccole piccole. Esatto. Poi che la legge sia scritta bene, perché fino a 25 centimetri è un po' difficile, cioè la signora Maria, adesso o il signor Gianni difficilmente sa cosa sono 25 centimetri, non lo misura. Poi la legge è ancora scritta peggio perché dice appunto che il consumatore può disfarsi gratuitamente di queste apparecchiature portandole in un negozio che abbia una superficie superiore a 400 metri quadri. E qui diventa davvero difficile. Ci vuole un metro un po' più grosso per capire. Esatto, la piantina catastale del centro commerciale dove devi andare. Se qualche volta ci scrivessero delle leggi semplici forse sarebbe tutto. Ha sollevato due o tre volte il presidente Arienti la questione delle leggi scritte male, se ci scrivessero delle leggi un po' più semplici, Mauro, un tema che a te è molto caro. Ma sai, devi recuperare questi decreti e circolare come fai con la legge di bilancio. Guarda, sì, ne farò una avida lettura. Senti, posso mandare una domanda della nostra ascoltatrice Elisa da Roma, che secondo me mette un po' il dito nella piaga, perché dice, adesso te lo faccio dire direttamente a lei. Buongiorno Elisa, ci dica. Per il presidente Quagliuolo, sì, pane per i suoi denti. Ma forse abbiamo perduto Elisa. No, vabbè, la riassumina tu, che peccato, Mauro. Il senso è, ma perché a Roma mi dicono di mettere plastica e metalli insieme, in provincia invece mi dicono di separarli? Cioè, queste differenze nella differenziata, scusate il gioco di parole, effettivamente mettono un po' in difficoltà noi cittadini, perché se si cambia di comune, tante volte anche nella stessa provincia, soltanto nel comune limitrofo, le norme cambiano. E allora non si potrebbe avere delle indicazioni nazionali, certo, stabili, ecco. Il CONAI è consapevole ovviamente di queste. Certamente, questa è una discrepanze. Diciamo, questa è una problematica che noi abbiamo affrontato e abbiamo cercato di risolvere da parecchio tempo, però dobbiamo ricordarci tutti che sui rifiuti urbani la privativa sta in capo ai comuni. I comuni scelgono, o loro o i loro delegati alla raccolta scelgono il metodo di raccolta che preferiscono fare, che normalmente è modulato sulla base del tipo di territorio, sul tipo congregazione urbana e cose di questo genere. Per cui correttamente questa ascoltatrice ha detto che ci sono dei posti dove si fa la raccolta cosiddetta multimateriale leggera, che prevede il conferimento di plastica e lattine, per cui siano esse di alluminio o di acciaio, insieme. E ci sono altri posti dove invece si fa la raccolta monomateriale, che per cui significa conferire plastica solo con la plastica, metalli solo con i metalli e via discorrendo. Noi abbiamo, tanto per darvi un'idea, un'altra delle cose sulle quali abbiamo cercato di normalizzare o comunque di standardizzare il sistema è sui cosiddetti cassonetti o contenitori, che anche qui in Italia abbiamo una situazione assurda, per cui magari c'è a Milano la plastica è gialla, se vai a Catanzaro magari è bianca, se vai ad Ascoli Piceno è blu, per cui anche qui non c'è una standardizzazione sui colori, per cui il cittadino che si muove sul territorio si trova a dover adeguarsi a modalità di raccolta differenziata che sono a volte molto differenti tra di loro. Esatto, sono anche adeguate, Presidente, le campagne di comunicazione anche nei comuni dove comunque la differenziata viene perseguita correttamente, le campagne di comunicazione presso i cittadini, perché io vedo mia mamma che per esempio per il nostro paese, per il paese dove vive, ha attaccato al frigorifero tutte le regole della differenziata, le giornate in cui avviene la raccolta di determinati rifiuti, però non ovunque è così. Marco, sì, mi sta segnalando che abbiamo un'altra telefonata, Mauro, giusto? Abbiamo cercato l'ascoltatore, ma non siamo riusciti a recuperarlo. Debora? Presidente Quagliuolo, le faccio completare questa risposta. Sì, diciamo che molto spesso è dipendente dalla diligenza dell'operatore incaricato della raccolta. Noi facciamo tanta comunicazione, abbiamo un bando che si chiama proprio bando di comunicazione, sul quale mettiamo più di 1,5 milioni all'anno, che chiaramente viene usufruito dai comuni che vogliono fare comunicazione proprio, certo, nel senso di istruire i cittadini sulla quantità e qualità della raccolta differenziata. E invece il consorzio Ecodom, Presidente Arienti, per quello che riguarda il riciclo degli elettrodomestici? In realtà noi facciamo una fase... Il riciclaggio. Sì, noi ci occupiamo di una fase che viene dopo la raccolta, cioè la raccolta dei RAE, dei rifiuti elettrici e elettronici, è in capo agli enti locali, quindi ai nostri comuni, e ai negozianti, in base ai due decreti che citavamo prima. Poi noi interveniamo raccogliendo tutti i rifiuti che questi signori hanno intercettato dei cittadini, e garantendo che da una parte le sostanze inquinanti vengano rimosse in modo corretto, certo, dall'altra parte le materie prime che li costituiscono vengono riciclate col più alto tasso possibile. Le leggo al volo questo messaggio di Giovanna, che voleva chiedere: sta cambiando cucina, deve smaltire frigo e fornello, la società presso cui ha preso quelli nuovi le ha chiesto, per riprendersi vecchi, 100 euro, no, giusto? Per il ritiro è assolutamente illegale, cioè il ritiro deve essere gratuito. Ecco, quindi sappiatelo molto chiaramente che non è corretto che l'azienda che vi recupera, il negozio, il centro commerciale che vi recupera l'elettrodomestico vecchio, vi chieda un contributo. Capito, Mauro? Ho capito, ma guarda, allora Debora, io invito tutti a... Quindi la vecchia vedere... caffettiera non te la posso riciclare, non te la posso smaltire. La nostra pagina Facebook, metteremo il decalogo per la corretta, bravo, raccolta differenziata. Attenzione agli elettrodomestici, e attenzione, domani e non il giovedì come facciamo di solito, parleremo di investimenti. Bravo, cioè Investire Informati traslata a domani. Nel frattempo io ritorno da te. Benissimo, allora ti aspetto. Grazie.